ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin aveva incontrato sua sorella Gertrude lungo la Broadway per caso, per un caso, come poi si rivelò, particolarmente propizio, seppur sconcertante. Era stata lei a vederlo per prima mentre attendeva un tram all'angolo. Ne aveva subito notato la faccia, segnata dall'ansia e dalla fame, lo sguardo disperato e preoccupato. Martin era davvero disperato e preoccupato. Tornava da un inutile incontro con il proprietario del Banco dei Pegni, dal quale aveva cercato di spremere qualche soldo in più sulla bicicletta. Martin l'aveva impegnata un po' di tempo prima per potersi tenere il vestito nero, dato che l'inverno, con il suo tempo fangoso, era ormai arrivato. «C'è ancora l'abito nero», gli aveva risposto il proprietario, che ormai conosceva ogni avere di Martin. «Fammi il favore, non dirmi che l'hai impegnato con quell'ebreo Lipka, perché se l'hai fatto...» Sotto lo sguardo minaccioso dell'uomo, Martin si era affrettato a gridare: «No, ce l'ho io! Ma ho bisogno di metterlo per una questione d'affari!» «D'accordo», aveva replicato, addolcitosi, l'usuraio. «Anch'io lo voglio per una questione d'affari, prima di lasciarti avere altri soldi. Credi che faccia questo mestiere perché me lo ha ordinato il medico?» «Ma quella bicicletta vale $40 ed è in buone condizioni», aveva ribattuto Martin. «Mi hai sempre dato solo $7, anzi nemmeno 7, $6.25, perché ti sei preso gli interessi in anticipo. Se vuoi ancora soldi, portami l'abito». Era stata la risposta che aveva spinto Martin fuori da quella piccola e soffocante topaia, con il cuore così pieno di disperazione che quel sentimento gli si rifletteva sulla faccia e mosse Gertrude a pietà. Si erano appena incontrati che il tram per il Telegraph Avenue arrivò e si fermò per far salire una folla di compratori pomeridiani. Martin diede una stretta al braccio di sua sorella mentre l'aiutava a salire. E allora lei capì che non aveva nessuna intenzione di seguirla. Si girò sullo scalino e guardò giù. La faccia emaciata di Martin le toccò di nuovo il cuore. «Non vieni?» gli chiese lei. L'istante successivo era sul marciapiede, di fianco a lui. «Preferisco camminare. Mi mantengo in forma, sai?» spiegò lui. «Allora ti accompagno per qualche isolato», annunciò lei. «Forse mi fa bene. Non mi sono sentita per niente troppo vivace in questi giorni». Martin guardò Gertrude e poté verificare quanto quell'affermazione fosse vera nel suo aspetto trasandato, nel grasso malaticcio, nelle spalle cascanti, nei tratti della faccia stanchi e cadenti e nella pesantezza del passo, privo di elasticità, la caricatura della camminata che appartiene a un corpo libero e felice. «È meglio che ti fermi qui», le disse Martin al primo incrocio, anche se lei si era già fermata. «E prendi il prossimo tram». «Oh mio Dio, se non sono già stanca», ansimò. «Ah, ma certo, non faccio più fatica a camminare di te con quelle suole. Sono così sottili che non arriveranno intere a North Auckland». «O ne ho un paio migliore a casa», fu la risposta. «Vieni a cena domani», lo invitò all'improvviso Gertrude, come se le fosse appena venuto in mente. «Il signor Higginbotham non ci sarà, deve andare a San Leandro per affari». Martin scosse la testa, ma non era riuscito a impedire che un lampo di fame ferina gli balenasse nello sguardo all'idea di una cena. «Non hai un solo penny, Mart, ecco perché cammini, altro che forma». Gertrude cercò di arricciare il naso in segno di disprezzo, ma riuscì solo a espirare rumorosamente. «Qui, fammi vedere». E dopo aver armeggiato nella borsa, gli mise in mano una moneta da $5. Devo aver dimenticato il tuo ultimo compleanno, Mart, mormorò debolmente. La mano di Martin si chiuse istintivamente sul pezzo d'oro, mentre nello stesso tempo sapeva di non doverlo accettare. Si ritrovò così a lottare tra i pungoli dell'indecisione. Quel poco d'oro significava cibo, vita e luce nel suo corpo e nel suo cervello, la forza per andare avanti e scrivere. E chi poteva saperlo? Forse la forza di scrivere qualcosa che gli avrebbe portato molti pezzi d'oro. Ebbe una visione chiara dei manoscritti dei due saggi che aveva appena completato. Li vide sotto il tavolo, sopra il mucchio dei manoscritti che gli erano stati rinviati e per i quali non aveva più francobolli. Ne vide i titoli, così come li aveva battuti a macchina: I sacerdoti del mistero e La culla della bellezza. Non li aveva proposti a nessun giornale. Erano validi come tutto ciò che aveva scritto su quell'argomento, se solo avesse avuto dei francobolli. Allora sentì sorgere dentro di sé la certezza di un prossimo successo, abile alleata della sua fame, e con un rapido movimento si infilò la moneta in tasca. «Te li ridarò, Gertrude, moltiplicati per 100», disse tutto d'un fiato, la gola dolorosamente contratta e gli occhi bagnati da appena un accenno di lacrime. «Ricordati le mie parole», gridò con brutale ottimismo. «Prima che quest'anno finisca ti metterò in mano un bel centinaio di quei ragazzi d'oro. Non ti chiedo di credermi. Devi solo aspettare e vedere». Infatti Gertrude non gli credeva L'incredulità la faceva sentire a disagio e allora, accorto di altri espedienti, gli disse: «So che soffri la fame, Mart. Si vede bene. Vieni a mangiare quando vuoi. Ti manderò uno dei bambini per dirti quando il signor Higginbotham è via. E Mart...» Martin aspettò, anche se sapeva nel segreto del suo cuore cosa sua sorella stesse per dire, così trasparenti gli erano i suoi processi mentali. «Non pensi che sia ora di trovarti un lavoro?» gli disse. «Ah, non credi che ce la farò, eh?» Lei scosse la testa. «Nessuno crede in me, Gertrude. Solo io.» La voce di Martin era appassionata e ribelle. «Ho lavorato bene e tanto. Presto o tardi riuscirò a vendere qualche cosa.» «Ma come fai a giudicare?» «Perché...» si interruppe lui, mentre l'intero vasto campo della letteratura e della storia della letteratura si agitava nel suo cervello e gli mostrava quanto fosse inutile tentare di comunicare a sua sorella i motivi della sua fiducia. Perché quello che scrivo è migliore del 99% di quello che pubblicano i giornali. Che tu torni a ragionare, Gertrude gli rispose debolmente, ma incrollabilmente certa della propria diagnosi su ciò che affliggeva il fratello. Vorrei che tu torni a ragionare, ripeté, e vieni a cena domani. Dopo aver aiutato sua sorella a salire sul tram, Martin si affrettò verso l'ufficio postale e investì in francobolli 3 dei suoi $5. Più tardi, mentre andava dai Morse, si fermò all'ufficio postale per pesare un buon numero di buste lunghe e voluminose che affrancò con tutti i francobolli acquistati, tranne 3 da 2 centesimi. Fu una notte fatale per Martin, perché dopo cena incontrò Russ Brissenden. Martin non sapeva come fosse capitato lì, di chi fosse amico o quale conoscente lo avesse portato con sé. Non era neppure tentato di chiedere informazioni su di lui a Ruth. In breve, Brissenden apparve a Martin anemico e stupido, e di lui si dimenticò prontamente. Un'ora più tardi decise che Brissenden era anche un maleducato, poiché si aggirava da una stanza all'altra fissando i quadri o ficcando il naso nei libri e nelle riviste prese dal tavolo o dagli scaffali. Sebbene fosse uno straniero in quella casa, si isolò dal resto della compagnia rannicchiandosi in un'ampia poltrona Morris e immergendosi nella lettura di un sottile volume estratto da una tasca. Mentre leggeva, faceva scorrere distrattamente le dita tra i capelli, come se li accarezzasse. Martin, in quella serata, lo notò solo un'altra volta. Era intento a scherzare con alcune giovani ospiti, apparentemente con grande successo. Mentre Martin se ne stava andando, incontrò casualmente Brissenden, a metà del vialetto che conduceva in strada. «Salve, è lei?» disse Martin. L'altro gli rispose con un grugnito per nulla gentile, ma gli si affiancò. Martin non fece ulteriori tentativi di conversazione e, per diversi isolati, i due camminarono avvolti in un silenzio totale. «Vecchi somari pomposi!» Il commento era stato così inaspettato e violento che Martin sobbalzò. Poi si sentì divertito, seppur sempre più consapevole dell'antipatia che l'altro suscitava in lui. «Perché frequenta posti simili?» gli fu brutalmente chiesto dopo un altro isolato di totale silenzio. «E lei perché?» contrattaccò Martin. «Dio mi benedica, non lo so», fu la risposta. «Almeno questa è la mia prima confidenza. Ci sono 24 ore in ogni giorno e devo pur farle passare in qualche modo. Avanti, andiamo a berci qualche cosa.» «D'accordo», rispose Martin. L'attimo dopo Martin si sentì sconcertato dalla prontezza con la quale aveva accettato. A casa, prima di andare a letto, lo aspettavano diverse ore di lavoro mercenario e dopo essere andato a letto c'era un'opera di Weissmann che lo attendeva, per non parlare dell'autobiografia di Herbert Spencer, la quale per Martin traboccava di emozioni come un romanzo drammatico. «Perché dovrei perdere del tempo con quest'uomo che nemmeno mi piace?» pensò. «Eppure non si trattava dell'uomo o del bere, ma di ciò che era associato con il bere. Le luci brillanti, gli specchi e le file di bicchieri pieni di riflessi, il calore, il rossore delle facce, l'assordante mormorio degli uomini. Ecco che cos'era. Erano le voci degli uomini, di uomini ottimisti, uomini che respingevano successo e spendevano i loro soldi per bere come fanno gli uomini. Martin era solo, questo era il problema. Ecco perché aveva preso al volo quell'invito, come un tonno si getta su uno straccio bianco attaccato ad un amo. Con l'unica eccezione del vino offertogli dal droghiere portoghese, era dai tempi di Joe, dello Shelly Hot Springs, che Martin non beveva in un locale pubblico. A differenza dell'esaurimento fisico, lo sfinimento mentale non produceva un desiderio spasmodico di alcol e Martin non aveva più avuto bisogno di bere. Ma adesso lo desiderava, o meglio, desiderava l'atmosfera in cui si versava e si preparava da bere. Il posto era il Grotto, dove lui e Brissenden oziarono in ampie poltrone di pelle bevendo whisky scozzese allungato con soda. Martin e Brissenden parlarono di molte cose e sia l'uno che l'altro a turno ordinavano scotch e soda. Martin, che non aveva problemi a bere, si meravigliava di come l'altro reggesse l'alcol e, di tanto in tanto, si stupiva anche della sua conversazione. Ah, gli ci volle solo poco tempo per stabilire che Brissenden doveva conoscere l'intero scibile e per decidere di essere davanti al secondo intellettuale che avesse mai incontrato. Ma notò che Brissenden possedeva ciò che mancava al professor Caldwell, cioè il fuoco, i lampi dell'intuizione e della percezione, la fiammeggiante libertà del genio. Parole viventi sgorgavano da lui, le sue labbra sottili, come denti di una macchina, stampigliavano frasi che tagliavano e pungevano, o ancora, le labbra sottili, increspandosi teneramente intorno al primo suono che articolavano, davano forma a cose soffici e vellutate, a frasi succose di luce e di gloria, di una bellezza indimenticabile, illuminata dal riverbero del mistero e dall'imperscrutabilità della vita. E poi, ancora, quelle labbra sottili diventavano simili ad una tromba risuonante dello schianto e del tumulto della lotta cosmica, frasi limpide come l'argento, luminose come spazi stellati, capaci di comprendere la parola ultima della scienza. Eppure, quelle parole dicevano qualche cosa di più. Era la parola del poeta, la verità trascendentale, elusiva, inesprimibile che, tuttavia, trovava espressione nelle connotazioni di parole comuni, parole a volte, certo, sottili, ma per nulla inafferrabili. Brissenden, grazie a qualche meravigliosa capacità di visione, vedeva oltre gli estremi avamposti dell'empirismo, luoghi che nessun linguaggio poteva narrare. Eppure, grazie a quel dorato miracolo del linguaggio, quell'uomo riusciva a rivestire le parole note di significati sconosciuti, per comunicare alla coscienza di Martin messaggi impossibili da comunicare ad anime comuni. Martin dimenticò la sua prima impressione negativa. Qui, il meglio che i libri avevano da offrire era divenuto vero. Qui c'era un uomo vivo, intelligente, al quale Martin poteva guardare con ammirazione. «Mi inginocchio nel fango ai tuoi piedi», Martin ripeté a se stesso infinite volte. «Lei ha studiato biologia», disse ad alta voce, in modo significativo, e per sua sorpresa Brissenden scosse la testa. «Ma lei sta affermando verità, che ricevono sostanza solo nella biologia, insistette Martin, e fu ricompensato da uno sguardo ottuso. Le sue conclusioni corrispondono a quelle di libri che sicuramente lei ha letto. Ah, sono felice di saperlo, fu la risposta. Trovo molto rassicurante sapere che la mia infarinatura di cultura mi consente di prendere delle scorciatoie verso la verità. Per quanto mi riguarda, non mi sono mai preoccupato di scoprire se ho ragione o torto. In ogni caso, non ha importanza. L'uomo non può mai conoscere le verità ultime. «Lei è un discepolo di Spencer!» gridò Martin con voce trionfante. «Non lo leggo dai tempi dell'adolescenza, e anche allora lessi solo la sua educazione. Oh, come mi piacerebbe poter accumulare conoscenze con la stessa facilità!» esclamò Martin mezz'ora più tardi. Aveva analizzato con cura l'equipaggiamento mentale di Brissenden. «Ciò che è davvero incredibile è che lei è un dogmatico puro!» Lei afferma dogmaticamente quelle leggi estreme che la scienza ha potuto provare solo grazie a un ragionamento a posteriori. Invece lei balza a conclusioni corrette, cioè lei percorre le scorciatoie a tutta velocità. Grazie a qualche processo sovrarazionale, lei intuisce con la velocità della luce quale sia la sua strada verso la verità. Sì, ecco cosa preoccupava padre Joseph e padre Dutton, replicò Brissenden. Oh, no, no, aggiunse, non sono nulla di particolare. Un caso fortunato mi ha spedito in una scuola cattolica per studiare. E lei, dove si è fatto la sua cultura? Mentre gli rispondeva, era occupato a studiarlo. Vagava dalla faccia aristocratica, lunga e magra, dalle spalle cadenti, al soprabito appoggiato su una sedia vicina, le tasche sformate e gonfiate dal carico di molti libri. La faccia di Brissenden e le sue lunghe, snelle mani erano abbronzate dal sole. Troppo abbronzate, pensò Martin. Quella bronzatura lo preoccupava. Era chiaro che Brissenden non era uno sportivo. E allora, come aveva fatto il sole a segnarlo in quel modo? Qualcosa di malsano e importante era connesso con quella bronzatura, pensò Martin, mentre riprendeva a studiarne la faccia stretta, con gli zigomi alti e le guance incavate, ma abbellita dal naso aquilino più fine e delicato che Martin avesse mai visto. Gli occhi, invece, di un marrone indefinibile, non avevano nulla di particolare nelle dimensioni, non erano né grandi né piccoli. E però vi covava un fuoco, o meglio, vi faceva capolino un'espressione ambigua, insolitamente contraddittoria. Superbi, indomabili, persino duri fino all'eccesso, quegli occhi risvegliavano allo stesso tempo un sentimento di pietà. Martin si sorprese a provare pietà per lui, senza sapere perché, ma conobbe presto il motivo. «Oh, sono malato di polmoni», annunciò Brissenden, come fosse una cosa di nessuna importanza, un po' più tardi, dopo aver detto che veniva dall'Arizona. «Sono stato lì un paio d'anni, per il clima». «E non ha paura di avventurarsi in questo clima?» «Paure?» Non c'era un'enfasi particolare nella ripetizione di quella parola, ma Martin vide quel volto ascetico proclamare che nulla al mondo poteva spaventarlo. Gli occhi si erano assottigliati fino a diventare simili a quelli di un'aquila. Martin trattenne quasi il fiato, vedendo dilatarsi le narici di quel becco d'aquila spavaldo, arrogante ed aggressivo. «Magnifico!» commentò tra sé e sé, mentre il sangue gli fremeva quella vista, e a voce alta Martin citò: «Sotto i colpi del destino la mia testa sanguina, ma non si piega». «Le piace Henley», disse Brissenden, mentre sulla sua faccia appariva rapidamente un'espressione di gentilezza e tenerezza. «Naturalmente non potevo aspettarmi altro da lei. Ah, Henley è un'anima coraggiosa, spicca tra tutti i rimatori contemporanei, i rimatori da giornaletti, come un gladiatore spicca nel mezzo di una banda di eunuchi». «Non le piacciono i giornali?» Martin sottolineò lievemente. E a lei sì? Gli ribatté con tale aggressività che Martin sobbalzò. Io scrivo, o meglio, cerco di scrivere per i giornali, rispose balbettando. Va già meglio, fu la risposta assai più calma. Cercate di scrivere e non ci riuscite. Io rispetto e ammiro il vostro fallimento. So cosa voi scrivete. Posso vederlo anche a occhi chiusi. E ciò che scrivete contiene un ingrediente che lo rende ostico alle riviste. Ed è la forza, il coraggio. E le riviste non sanno che farsene di merce simile. Ciò che vogliono è della robetta viscida molto sentimentale. E Dio solo sa quanta ne ricevano. Ma non certo da voi. Ma io non mi ritengo superiore a un po' di lavoro mercenario, ribatté Martin. Tutt'altro. Brissenden si interruppe e con occhio insolente passò in rivista l'evidente povertà di Martin, dalla cravatta sfrangiata al colletto che era ormai come una sega, alle maniche lustre della giacca coi polsini sfilacciati, per concludere l'esame passando gli occhi sulle guance emaciate di Martin. Tutt'altro. Il fatto è che il lavoro mercenario disdegna voi e vi disdegna a tal punto che non riuscirete mai a sedurlo. Mio caro, io vi insulterei, certo, se vi invitassi a mangiare qualcosa in mia compagnia. Martin sentì la faccia vampargli per un'ondata di sangue e Brissenden rise in tono di trionfo. Un uomo pasciuto non si ritiene insultato da un simile invito, concluse. Siete un demonio, dichiarò irritato Martin. Ad ogni modo, non vi ho ancora invitato, perché non osate... Non ditelo troppo presto. Ecco, adesso vi invito. E fece per alzarsi dalla poltrona, mentre diceva queste parole, quasi avesse l'intenzione di recarsi subito al ristorante. Martin strinse selvaggiamente i pugni, mentre il sangue gli tumultuava alle tempia. «Venite tutti a vedere Bosco! Li mangia vivi! Vivi li mangia!» esclamò Brissenden, imitando l'imbonitore di un mangiatore di serpenti famoso da quelle parti. «Certo voi mi sentirei di mangiarvi vivo!» dichiarò Martin, lanciando a sua volta uno sguardo insolente sulla misera anatomia del compagno. «Soltanto che non ne vale la spesa!» «Ciò che non ne vale la pena, osservò Martin, è la provocazione!» E scoppiò in una risata cordiale e serena. Ammetto che siete riuscito a pigliarmi in giro, Brissenden. Che io abbia fame, che voi ve ne siate accorto, sono fenomeni più che ordinari, ma non avviliscono nessuno, vedete. Io me ne rido delle misere norme morali che il gregge accetta. Poi mi passate accanto voi, mi dite una frase pungente e vera e immediatamente torno anch'io a essere lo schiavo di quelle stesse misere leggi. Vi siete sentito insultato, dichiarò Brissenden. No, un momento fa lo ero effettivamente. I pregiudizi della prima giovinezza, vedete. Allora imparai quelle leggi ed esse in certo qual modo sviliscono ciò che ho imparato dopo. Sono un po' la mia onta segreta, che adesso non vi affligge più, vero? Affatto. Ne siete sicuro? Sicurissimo. Bene, allora andiamo a mangiare qualcosa. Vi seguo, rispose Martin, cercando di pagare il whisky con gli ultimi resti dei $2 e scorgendo che Brissenden obbligava il cameriere a rimettere i soldi sul tavolo. Martin intascò le monete con una smorfia e, per un istante, avvertì la mano gentile di Brissenden posata sulla sua spalla. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it